ma non mi piace pescare. E poi non amo le mode, non mi va di chattare. E non ci entro più in disco, con quel volume io scoppio. E non ho voglia di bere, ordino solo una Schweppes. Preferisco guardarmi un film o una serie TV, o farmi un viaggio magari a New York, sentire il radio, quel pezzo di Bowie, oppure un disco di Battisti, gli impressionisti, Renoir e Cézanne, o prendermi un gelato in centro con te, le storie sull'Olimpo con tutti gli dèi e le sonate di Stravinsky. Sono le cose che non ho in comune con te, le stesse cose che tu non sai capire di me, che io mi perdo, perdo i sogni e poi io non lo ballo, ballo il reggaeton. Sono le cose che non hai in comune con me, le stesse cose che io non so capire perché tu non mi ascolti, ascolti quasi mai e non ti sforzi, no, non cambierai mai, mai, mai, mai. Non mi so dare una marca, non voglio addosso una targa, non bevo neanche più il vino, non penso a quello che dico. Nelle città non mi oriento, ed ho il telefono spento. E poi non so parcheggiare, e non sopporto il metro. Preferisco stare distesa sul tetto con te, e chiacchierare davanti a un caffè. Pensare a cosa c'è dopo la morte, o le maratone di Harry Potter. Guardare il mondo da un punto lassù, sentirmi come dentro un déjà vu. Incollare nuove storie alla parete, o disegnare ali sulle pietre. Sono le cose che non ho in comune con te, le stesse cose che tu non sai capire di me, che io mi perdo, perdo il sogno e poi io non lo ballo, ballo il reggaeton. Sono le cose che non hai in comune con me, le stesse cose che io non so capire perché tu non mi ascolti, ascolti quasi mai e non ti sforzi, no, non cambierai mai, mai, mai, mai. Ma poi non dormo più senza di te, non mi piace più niente che non ha lo stesso sapore, e mi rigiro per ore senza capire il perché. Cerco le cose che non ho in comune con te, le stesse cose che tu non sai capire di me, che io mi perdo, perdo il sogno e poi io non lo ballo, ballo il reggaeton. Sono le cose che non hai in comune con me, le stesse cose che io non so capire.